La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato alla secessione dell'Aventino, l'atto di protesta attuato da alcuni deputati d'opposizione contro il governo fascista, in seguito alla scomparsa di Giacomo Matteotti l'11 giugno 1924. Ospite ai nostri microfoni Mauro Canali, docente di storia contemporanea all'Università di Camerino. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Nei giorni scorsi, a proposito della decisione delle opposizioni di disertare in parte i lavori della Camera in occasione dell'ultimo voto di fiducia al governo Berlusconi, è stato evocato il precedente della secessione aventiniana. Parallelo, per la verità, improprio e per fortuna, potremmo aggiungere, poiché quando nel giugno del 1924 i parlamentari dell'opposizione, riuniti in una sala di Montecitorio, decisero di abbandonare il Parlamento finché non fosse stata ripristinata la legalità, si era in tutt'altro contesto storico. Dopo l'assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti, il Parlamento viveva di fatto la sua ultima stagione, prima che il paese precipitasse nel buio della dittatura, come fu del resto chiaro con il famoso discorso di Mussolini alla Camera del 3 gennaio 1925. La cronaca, tuttavia, ci offre talvolta, pur con le inevitabili approssimazioni, spunti per rievocare episodi di un passato che poi non è così lontano, considerati almeno i cicli storici. Il 24 maggio 1924 si inaugura la 27esima legislatura, a seguito delle elezioni del 6 aprile, in cui il listone fascista ha ottenuto i 2/3 dei seggi in applicazione della legge Acerbo. Il deputato socialista Giacomo Matteotti denuncia a più riprese e senza mezzi termini dai banchi della Camera i brogli elettorali e la conseguente illegittimità della maggioranza fascista. È iscritto a parlare l'onorevole Giacomo Matteotti. Ne ha facoltà. Onorevoli colleghi, contestiamo in tronco la validità delle elezioni tenute in Italia nell'aprile scorso. È una provocazione! La giunta delle elezioni si è proposto la convalida di numerosi colleghi. Ora, contro la loro convalida, noi presentiamo questa semplice e pura eccezione. E cioè che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto 4 milioni e tanti voti, anche di più, non li ha ottenuti di fatto e liberamente. Ed è dubitabile, quindi, se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che le è necessario. Voi fascisti rovinate l'Italia! La notizia della sua scomparsa, diffusasi il 12 giugno senza che vi sia alcun dubbio sulla sua sorte, induce le opposizioni a un gesto clamoroso: la secessione aventiniana, nel ricordo delle forme di protesta messe in atto dalla plebe nell'antica Roma come i patrizi. È una decisione senza precedenti nella storia parlamentare italiana. Il 13 giugno 1924 i deputati socialisti unitari, socialisti massimalisti, comunisti, popolari, democristiani, sardisti e liberali amendoliani si riuniscono in una sala di Montecitorio per proclamare la loro decisione di abbandonare i lavori dell'Assemblea. Il 27 giugno del 1924 i deputati aventiniani pubblicano un manifesto in cui si ribadiscono le ragioni della scelta compiuta e si chiede il ripristino della legalità. Per tutta risposta, Mussolini, ottenuta la fiducia al Senato, emana i primi provvedimenti restrittivi della libertà di stampa. Il fronte aventiniano subisce nel frattempo una prima frattura con la decisione dei comunisti di tornare in aula. L'esperienza aventiniana si va di fatto consumando nella divaricazione sempre più marcata tra il suo contenuto morale e la mancanza di un indirizzo comune per l'azione politica che possa in qualche modo contrastare l'avanzamento dei fascisti. Mussolini prepara nel frattempo la controffensiva, prima riproponendo il 20 dicembre 1924 il ritorno al collegio uninominale, guadagnandosi con questo il consenso dei liberali, poi con il discorso del 3 gennaio 1925, accusando la secessione dell'Aventino di essere piuttosto una sedizione. Va bene, dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo, fuori la corda. Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa. Le voci di Matteotti e Mussolini che abbiamo appena ascoltato sono tratti dal famoso film di Florestano Vancini, Il delitto Matteotti. Il 9 novembre del 1926 la Camera, ormai completamente nelle mani dei fascisti, dichiara decaduti i deputati che hanno aderito all'Aventino. Abbiamo in linea lo storico Mauro Canali, che è docente di storia contemporanea all'Università di Camerino e è autore di numerosi libri, tra cui ricordo Il delitto Matteotti, pubblicato dal Mulino, Le spie del regime, anch'esso dal Mulino, e Mussolini e il petrolio iracheno, pubblicato da Einaudi. Professore, grazie per aver accettato il nostro invito, prima di tutto. Prego. Allora, ci aiuti un attimo a contestualizzare meglio quello che già abbiamo in parte sintetizzato ai nostri ascoltatori. Allora, l'Aventino fallì perché? Per i contrasti che insorsero all'interno delle forze d'opposizione. Questo ormai è acclarato dal punto di vista storico. Sì, è la causa principale. Era del resto, come la definì anche Filippo Turati, uno dei capi dell'Aventino, la definì una Babele. Una Babilonia, sì. Insomma un dialogo tra sordi, tra forze politiche unite soltanto da questa, come dire, indignazione morale verso il delitto, questo delitto barbaro. È indignazione che però non sfociò in una proposta politica, e questo poi è il punto fondamentale. Sì, diciamo che aspettavano tutti, dico quasi tutti, aspettavano l'intervento del re, sì. Cioè praticamente la proposta politica era abbandoniamo il Parlamento e induciamo il re a forzare il dimissionamento di Mussolini. Dico non tutti, perché nella coalizione aventiniana c'erano anche i comunisti, ad esempio, anche in parte i socialisti avevano queste posizioni, che si rivolgevano più naturalmente all'intervento della piazza. Ecco, ma il re che atteggiamento ebbe poi alla fine? Ma il re non se la sentì affatto di dimissionare Mussolini, e lo disse chiaramente agli aventiniani, ai leader aventiniani che si recarono da lui, appunto dicendo: è il Parlamento, sono il Parlamento i miei occhi, sono i parlamentari i miei occhi, le mie orecchie, insomma, voi svolgete il vostro ruolo, se dimissionate voi, se siete in grado voi di provocare le dimissioni di Mussolini, allora io ne prenderò atto, ma che l'iniziativa debba partire da me, non ci pensate proprio. Questo un po' fu il succo del discorso, ma il re era ispirato in questa, come dire, in questi tentennamenti, in questo atteggiamento così un po' diffidente, dal fatto che temeva i salti nel buio. Certo. Temeva che le dimissioni di Mussolini dessero il via a una serie di disordini, a una situazione incontrollabile che poteva, almeno così era nelle preoccupazioni del re, poteva sfociare in una sorta di caos con anche pericoli di avventure anche autoritarie o comunque avventure confuse, e quindi con la monarchia messa in difficoltà. Scorrendo i suoi libri, appunto Il delitto Matteotti, ma anche Mussolini e il petrolio iracheno, mi viene subito da porle una domanda: ma c'è un collegamento tra Matteotti e il petrolio? Ma io, soprattutto nel delitto Matteotti, insomma, non mi bastavano i motivi, quelli tradizionali, nello spiegare il delitto. Cioè, Matteotti fa un discorso forte alla fine di maggio alla Camera e Mussolini, talmente indignato, che decide di sopprimerlo. Ecco, a me sembrava molto debole questa motivazione, perché altrimenti avrebbe dovuto ucciderne molti. certo, di deputati che si indignavano con lui in Parlamento. E invece cosa ha scoperto di più? La mia tesi è appunto che nelle motivazioni del delitto una forte concausa fosse il timore di Mussolini, il timore verso Matteotti, cioè il timore che Matteotti nel discorso che aveva annunciato alla riapertura delle Camere l'11 giugno denunciasse loschi affari di Mussolini, della famiglia Mussolini, loschi affari che richiamavano la questione petrolifera, cioè una convenzione petrolifera fatta con una società americana a cui veniva data il monopolio della ricerca a fronte di versamenti di tangenti. Quindi nella necessità di sopprimere Matteotti, a mio avviso, c'era anche questa forte concausa. Ecco, adesso le volevo chiedere un'altra cosa che riguarda sostanzialmente questi ricorrenti richiami che si fanno all'Aventino quando si determinano, come in occasione della scorsa settimana, degli atteggiamenti delle opposizioni che in qualche modo rievocano quel lontano precedente. Questo dal punto di vista storico mi sembra sostanzialmente insostenibile, perché non c'è assolutamente nessun tipo di parallelo. Eppure nella dialettica politica è rimasto questo precedente aventiniano, ancorché fallito rapidamente, quando si richiamano atteggiamenti forti dell'opposizione. È giustificato, secondo lei, dal punto di vista storico? Ma diciamo che alcune analogie, non forti però, ci sono. Sì. C'è questa un po' indignazione morale, di carattere morale, cioè c'è la questione morale, insomma, che stava anche alle origini dell'atteggiamento aventiniano, una questione morale che però era provocata nel caso aventiniano da un delitto, dall'uccisione di uno dei capi, forse il capo dell'opposizione antifascista, che in pieno giorno era stato, come dire, sequestrato e ucciso. Questi richiami di oggi sono richiami che sono più legati a una questione morale un po' più dai contorni meno precisati, che comunque viene sentita da molti settori dell'opposizione, e però una questione morale che, mentre dall'altra parte spinge tutta l'opposizione, almeno all'inizio, ad unirsi compatta, salvo poi a mostrare, diciamo, varie crepe successivamente, in questo caso mi sembra che siano pochi a fare cenni, diciamo, che richiamino un pochino l'esperienza aventiniana. Grazie professor Canali, buona serata. Prego, grazie a voi.